adesso siamo qui come la prima volta. Non è cambiato niente, tutto è uguale attorno a noi come la prima volta. Come ad esempio tutte tutte blu e la luna l'accompagna, ma non lo sanno ancora che noi stiamo festeggiando la fine di un amore. O tempo se ne va, ma non mi dice ancora, non serve né parole, c'è un silenzio che fa male quando si sbaglia il cuore. Pensavamo fa vecchio insieme a te e forse pensa ancora, ma non ti dico niente, ovvio non parlo e non ti fermo stasera. Ma come faccio a rimanere se non ci stai tu? Questo sole rimane una nuvola più. Come cammino un mondo se la strada sei tu. E come conta una stella. E sapere a quanto tempo è fornuto. La luna se ne va, si spoglia pure il mare, ormai se ne sono accorto che stasera me l'ha assato, la portano con loro. Cammino senza te girare, io che te guardo e moro. Presso te ne ha forza e non mi mettere paura quando ci dico cuore. Ma come faccio a rimanere se non ci stai tu? Vorresti sola rimane la nuvola più. Come cammino comunque sia strada se tu. E della conta una stella si avvede. A quando viene fornuto. A quanto tempo è fornuto.